Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Beh, oggi è una puntata affascinante, intanto perché non parliamo di un essere umano, di una persona, ma anche una puntata che può suscitare del dibattito e molte discussioni, perché questa volta parliamo di una vittima del progresso scientifico. Avete capito? Un animale, parleremo di un animale. Però, insomma, non si può dimenticare che l'evoluzione scientifica è passata attraverso il sacrificio di migliaia, milioni di animali. E quindi, insomma, c'è sempre questa dicotomia tra gli animalisti che dicono non ammazzate gli animali e altri che sostengono che oggi, se non fossero stati ammazzati degli animali, non ci sarebbero la penicillina, non ci sarebbero le invenzioni, non ci sarebbero le cure, non ci sarebbero un sacco di progressi della nostra società. Il tema è aperto e andrà avanti a essere discusso ancora per tanto tempo. Peraltro, quello di cui vogliamo parlare oggi riguarda qualcosa che non ha a che fare solo col pianeta Terra, quindi è ancora più delicato il tema, perché almeno in tempi brevi non è che si devono salvare vite, però bisogna assecondare la legittima voglia dell'uomo di ampliare i propri orizzonti. Probabilmente già l'uomo delle caverne, quando guardava verso l'alto, si domandava delle cose e inizialmente attribuiva tutto a Dio, a una divinità, la pioggia, il sole, il freddo, il caldo. E l'uomo però è cresciuto, è andato avanti, ma ha continuato a chiedersi cosa ci fosse al di là delle stelle, cosa ci fosse nei mondi lontani. E appena lo sviluppo tecnologico lo ha permesso, sono iniziati i primi esperimenti per raggiungere l'obiettivo fantascientifico di viaggiare nello spazio. E nel momento in cui si è cominciato a viaggiare, la scoperta è andata a confinare con la propaganda. Non a caso le due superpotenze che operavano nel periodo della guerra fredda, quindi gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, diciamo anni 50 e 60, hanno iniziato a fare a gara per arrivare per prime nella conquista dello spazio. Bene, noi oggi raccontiamo la storia di un evento sensazionale che ha colpito l'opinione pubblica di tutto il mondo, che ha avuto come protagonista un astronauta del tutto particolare, il primo essere vivente a avere viaggiato nello spazio e in orbita attorno al nostro pianeta. Oggi a quell'essere vivente dedichiamo la nostra puntata alla famosissima cagnolina Laika. NBC News presents a special report on the Russian launching of a second Earth satellite. And now to guide this report here in New York is NBC News commentator Merrill Muller. Good afternoon. A dog knocked a goat right out of the world's attention today. In a masterpiece of propaganda timing, the Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. This is reportedly history's first space traveler. Questo era l'annuncio originale del momento nel quale i sovietici hanno mandato in orbita intorno alla Terra un cane, primo essere vivente a volare nello spazio. È il 3 novembre del 57 e lo speaker dell'emittente statunitense NBC, un po' a denti stretti, ha dovuto ratificare il vantaggio dell'Unione Sovietica, perché in quel momento i russi sono in testa, hanno battuto gli americani sul tempo. Gli americani non possono non raccontare quello che è sulla bocca di tutti, quello che i telegiornali di tutto il mondo stanno definendo la notizia del secolo, l'evento destinato a segnare una nuova era nella storia dell'umanità. L'epopea dell'uomo non ha mai registrato un momento più grandioso, neanche la scoperta di Cristoforo Colombo ha prodotto lo stesso effetto sull'immaginario collettivo. Beh, anche perché allora non c'era la radio, la TV, e le notizie arrivavano un po' più lentamente. Però, insomma, tutti nel mondo sono incollati alla radio e i primi che ce l'hanno sono incollati alla televisione per sentire in diretta cosa stia succedendo qualche centinaio di chilometri sopra alle loro teste. E gli anni 50 segnano sicuramente uno dei momenti più agguerriti nel rapporto tra l'allora Unione Sovietica e gli Stati Uniti sono gli anni della guerra fredda, compiuta senza esclusione di colpi, e le due superpotenze gareggiano in tutto, perfino nello sport, alle Olimpiadi, cercano sempre di superare il nemico, di apparire migliori agli occhi del mondo, di dimostrare che il loro modello sociale, il loro modello di vita è superiore a quello dei rivali. È uno dei terreni sul quale i due paesi si affrontano con maggiore forza, è sicuramente la corsa alla conquista dello spazio. I programmi spaziali stanno avanzando di pari passo e gli americani sembrano essere avanti rispetto ai loro rivali d'oltre cortina, che sono meno tecnologici, meno moderni, che hanno un'immagine, diciamo, più antiquata. La modernissima America mostra con orgoglio le case super attrezzate dei suoi cittadini, dove ci sono la televisione, la lavatrice, il frullatore, l'aspirapolvere, tutti oggetti che i russi non conoscono e non li avranno a livello popolare ancora per decenni, fino alla perestroica degli anni 90 con Gorbaciov, diciamo. Però lì il concetto è diverso, il popolo russo non è tenuto a accedere alle grandi invenzioni della tecnologia per avere le vite più facili. Lì il potere politico si concentra sul campo militare, che poi la gente viva una vita miserrima, poco importa, e nel campo della ricerca scientifica confluiscono gli sforzi della nazione, tutti i cervelli migliori, tutti gli investimenti sono lì, sia per questioni di difesa militare sia per evidenti motivazioni di prestigio. I russi sono avanti anche nel programma spaziale, vengono compiute diverse missioni, esperimenti, voli suborbitali. Poi c'è anche da dire che qualora qualcosa fosse andato male, e forse è anche accaduto, i russi erano in grado di non far trapelare la notizia, mentre gli americani erano costretti a farla uscire. E quindi c'era anche questo vantaggio che la vita umana lì in Russia era meno importante. E intanto negli Stati Uniti, grazie al lancio del vettore V2, quello ideato dal grande scienziato tedesco Werner von Braun, al quale abbiamo dedicato una puntata, il vettore V2, dicevo, è il primo a poterci mandare delle fotografie dallo spazio. Siamo nel 1946, però c'è un interrogativo basilare dal quale dipende il destino delle missioni spaziali degli anni successivi. Il volo nello spazio è fattibile o no per un essere umano? Il falco e il gabbiano. Così come è accaduto per tanti altri avvenimenti, diciamo, pionieristici o di ricerca scientifica, prima di lanciare nello spazio un essere umano, bisognava lanciare nello spazio degli animali per aprire la strada, e l'obiettivo principale era quello di investigare sugli effetti biologici di un viaggio in assenza di gravità, per rispondere alla domanda chiave se l'essere umano poteva sopravvivere nello spazio. E si comincia a compiere diverse missioni nella suborbita, cioè nell'atmosfera terrestre, però con modalità differenti. Gli americani, per esempio, effettuano parecchi lanci inviando delle scimmie, perché le ritengono l'animale più simile all'uomo e quindi quello le cui risposte potevano avvicinarsi di più a quelle umane. Ci sono una serie lunga di scimmie, Albert, Albert 1, Albert 2, eccetera, che compiono viaggi più o meno lunghi, ma su queste scimmie si sa molto poco, perché si tratta di esperimenti avvolti dal segreto militare. Si sa che alcune scimmie sono rientrate sulla Terra, altre no, ma di più non c'è dato di sapere. I russi invece preferiscono da subito i cani per motivazioni differenti. Intanto le scimmie sono animali più esuberanti, l'immobilità crea loro stress e anche la solitudine. I cani sono più tranquilli, soprattutto le femmine, più abituati a vivere magari in casa, accettare ambienti angusti tipo le cucce. Oleg Gazienko, responsabile del programma spaziale presso il cosmodropo di Baikonur, praticamente, diciamo, l'equivalente sovietico della Cape Canaveral della NASA, racconta qual era l'obiettivo di quei primi anni di esperimenti spaziali. Era assolutamente essenziale avere una risposta alla domanda: la mancanza di gravità è una barriera insormontabile per la sopravvivenza umana nello spazio? Se fosse stato così, avremmo dovuto affrontare i problemi tecnici in una maniera completamente diversa. Ad esempio, durante il lancio del missile, avremmo dovuto farlo roteare. Nel frattempo, sia gli americani che i sovietici continuano a studiare come mandare il primo veicolo in orbita nello spazio, perché per il momento nessuna apparecchiatura ha mai lasciato l'atmosfera. È una guerra al massacro, naturalmente. La corsa allo spazio è uno degli avvenimenti di maggior rilievo mediatico nell'epoca e tutti si domandano quale delle due superpotenze sarà la prima a riuscire in quella che appare come un evento al limite dei poteri umani. Bene, l'Unione Sovietica stupisce tutto il mondo. Il 4 ottobre del 57 mette in orbita lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale del mondo che abbandona l'atmosfera terrestre e inizia a girare attorno alla Terra. I russi dimostrano una insospettata supremazia rispetto agli Stati Uniti. Ma lo smacco che la Russia infligge al suo nemico giurato non è che all'inizio. Galvanizzato dal successo, il presidente russo Nikita Khrushchev chiede al capo dei programmi spaziali, che si chiama Sergei Korolev, di anticipare a qualunque costo il volo orbitale di un cane previsto di lì ad alcuni mesi. Khrushchev vuole dimostrare a tutto il mondo la sua supremazia, che non è tanto scientifica, è quello militare che gli interessa decisamente di più. La scienza è un mezzo, non un fine per lui. Il volo orbitale che è avvenuto con successo è la dimostrazione che l'Unione Sovietica ha sia i mezzi sia la tecnologia necessaria per poter portare in orbita testate nucleari e quindi poter colpire un qualsiasi punto della Terra senza che gli americani possano difendersi. Ascoltiamo ancora Gazienko. Lavoravamo al primo e al secondo satellite in parallelo nella fabbrica dove eravamo impiegati sia io sia il mio collega Seriapin. Il lavoro al primo Sputnik lo seguiva un'altra squadra, mentre noi lavoravamo a quello che avrebbe ospitato la cagnetta, il secondo. Già, Khrushchev vuole fare un altro botto incredibile, vuole far sì che l'Unione Sovietica sia la prima nazione della storia dell'umanità a inviare un essere vivente nello spazio, e lo vuole fare in occasione del 40° anniversario della rivoluzione d'ottobre, quindi 7 novembre 57, questo era l'obiettivo. E se, come dire, fare bella figura voleva dire passare sopra alcuni protocolli di sicurezza, non era un problema. Noi queste cose le sappiamo solo oggi, perché con la caduta dell'Unione Sovietica i responsabili del progetto hanno raccontato la verità. Oggi sappiamo quello che allora veniva taciuto in tanti campi, compreso questo. Le procedure dell'ingegneria spaziale sono state accantonate, non viene neanche steso un progetto, la capsula spaziale viene costruita in tempi record sulla base di disegni anche un po' improvvisati. Lo Sputnik 2 è una capsula a forma di cono, 4 metri d'altezza, 2 di base, 500 kg di peso, destinata a essere collocata in cima a uno dei missili balistici intercontinentali più potenti dell'epoca, l'R7. L'abitacolo è dotato di un'atmosfera artificiale pressurizzata, di un impianto termoregolatore e apparati di trasmissione dei parametri vitali del passeggero. Un passeggero, anzi una passeggera, che deve essere piccolina, mansueta e tranquilla. E qui entra in scena la nostra star, la protagonista di uno dei più grandi accadimenti della storia delle esplorazioni spaziali, la cagnetta Laika. Laika in realtà si chiama Kudryavka, che in russo significa ricciolina, però il nome è troppo difficile da pronunciare per chi non è russo, quindi viene ribattezzata Laika, che significa piccola abbaiatrice. È una bastardina, una cagnetta randagia raccattata per le vie di Mosca. Ha 3 anni, pesa 6 kg, è un incrocio tra un husky e un terriere, è sanissima, docile, obbediente, dove la mettono rimane. Per questa missione vengono selezionate 3 cagnette, Albina, Mosca e appunto Laika. Albina compie un volo suborbitale di prova, Mosca viene utilizzata per testare i sistemi vitali della capsula spaziale, ma è lei, Laika, è la prescelta per il lancio, perché ha un'intelligenza particolare e soprattutto perché è calma e tranquilla. Attenzione, perché qui scatta il problema, c'è un fatto da dire, la capsula è assolutamente priva di qualsiasi sistema di recupero una volta compiuta la sua missione orbitale, è destinata a bruciare nell'impatto con l'atmosfera come una meteora. Ecco il ricordo di Oleg Gazienko. La richiesta che veniva dall'alto, molto dall'alto, era di accelerare tutto. La preparazione dell'animale, il suo addestramento, ma anche la costruzione dello Sputnik II. E quindi non fu possibile prevedere un sistema di recupero. Avrebbe portato via tanto tempo e noi di tempo non ne avevamo, o meglio, non ce ne avevano dato. Ci hanno obbligati. Sì. L'allenamento intensivo di Laika e delle sue due compagne, diretto da Oleg Gazienko, dimostra subito che la scelta è caduta sulla cagnolina giusta, perché Laika sopporta con pazienza questo addestramento che è severo e difficile, lei accetta docilmente, risponde bene, insomma le sue caratteristiche fanno di lei la candidata ideale. E se avesse saputo a cosa andava incontro avrebbe cercato di scappare, avrebbe dimostrato ansia, spavento, sarebbe stato scartata, ma lei non sa niente, è del tutto ignara della sorte che l'attende, non sa che a breve conquisterà una notorietà riservata a pochissimi nella storia, ma non sospetta che il suo viaggio straordinario non prevede biglietto di ritorno. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è la cagnolina Laika, che ha un destino straordinario, perché da bastardina qualsiasi persa per le strade di Mosca diventa una stella del firmamento della cosmonautica mondiale, primo essere vivente a uscire dall'orbita terrestre a volare nello spazio. È protagonista di un interesse mediatico senza precedenti, è acclamata più di una star di Hollywood, però è destinata a una fine crudele, perché il suo storico viaggio è un viaggio nel quale non è previsto un biglietto di ritorno. Alla base spaziale di Baikonur, che è il cosmodromo equivalente alla Cape Canaveral della NASA statunitense, siamo nell'odierno Kazakistan, Laika con le altre cagnoline del programma spaziale viene sottoposta a un allenamento severissimo. All'epoca nessuno ha ancora esperienza per inviare esseri viventi nello spazio, non si sa come potrà reagire il corpo all'assenza di gravità, siamo in una fase di pura sperimentazione. Durante l'allenamento gli animali vengono abituati a spazi angusti, rimangono anche 20 giorni rinchiusi in gabbie strettissime, questo li fa soffrire molto sia dal punto di vista fisiologico sia da quello psicologico. Laika all'inizio diventa irrequieta, a un certo punto il suo addestramento viene interrotto. Una volta tranquillizzata, Laika viene sottoposta a simulazioni di lancio in centrifughe all'interno del quale si riproducono le vibrazioni, i rumori del lancio vero, e Laika è costantemente monitorata dal suo preparatore Oleg Gazienko. Durante quelle simulazioni le misuravo la pressione e il battito del cuore, che raggiungeva una frequenza anche doppia. La accudivo con cura, mi assicuravo del suo benessere. Laika sopportava bene sia l'imbracatura necessaria per raccogliere i suoi bisogni, sia gli elettrodi che dovevano trasmettere alla centrale di controllo i suoi segnali vitali, polso, pressione, respirazione. Dato che la capsula sarebbe stata sottoposta sia al caldo intenso che al freddo dello spazio, le fornimmo un impianto di riscaldamento e refrigerazione che ne mantenesse costante la temperatura a 20 gradi circa. La capsula pesa in tutto 18 chili, ai quali vengono aggiunti 6 di Laika. All'interno dello Sputnik è imbottito e foderato, lo spazio è sufficiente per permettere a Laika di stare sdraiata o ritta sulle zampe a seconda di come preferisce. A bordo ci sono acqua e cibo preparati in forma di gel, il tutto viene fatto in tempi record senza andare troppo per il sottile. Laika viene preparata a affrontare un viaggio destinato a entrare nella storia e a darle l'immortalità, e per una tragica ironia della sorte, diventa un viaggio immortale per lei come nome, ma mortale per il cagnolino che non ha nessuna possibilità di ritorno. Arriviamo alla data del 3 novembre 57, a 4 giorni dalla più grande ricorrenza dell'Unione Sovietica, al 40° anniversario della rivoluzione d'ottobre. Lo storico lancio di Laika è il miglior atto di propaganda possibile e il degno coronamento dei successi del Soviet. Sono le 2:30 del 3 novembre 1957. Il razzo con a bordo Laika viene lanciato dal cosmodromo di Baikonur. E secondo i dati telemetrici inviati dal satellite, il polso di Laika è notevolmente accelerato durante le fasi. Si deve aspettare che la forza di gravità inizi a ridursi per notare una diminuzione della frequenza cardiaca. Per quanto la cagnetta sia stata sottoposta a duri allenamenti, è chiaro che per lei il momento del lancio è qualcosa di sconvolgente, di stravolgente dal punto di vista fisico e psicologico. Immagino animalisti in lacrime in questo momento, li capisco. Insomma, ascoltate il ricordo di Alexander Seriapin, il dottore in scienze mediche aerospaziali, nonché il colonnello dell'esercito sovietico, che era responsabile assieme a Oleg Gazienko dell'addestramento di Laika. È stato un evento storico. A 7 chilometri dalla rampa di lancio potevi sentire la terra tremare e il suono del motore. Il rumore era terribile. All'inizio pensai che solo io mi sentivo male. Ero triste per Laika, ma poi vidi per la prima volta uomini che piangevano disperati quando ebbero la certezza che Laika era entrata in orbita. Eh sì, perché va sottolineato anche questo aspetto, che c'era un gruppo di lavoro che era stato per mesi a stretto contatto con Laika, che si era affezionato alla cagnetta, aveva vissuto con lei e lei era brava, buona, obbediente, tutti l'amavano, i medici, i preparatori, i tecnici, e quindi sapere che era condannata a morte sicura era un evento molto forte per loro, perché anche fisicamente l'avevano messa sullo Sputnik, magari coccolandola e sapendo che la stavano mandando a morire. Il lancio di Sputnik 2 di Laika ha un eco ancora superiore a quello di Sputnik 1, e in Occidente le ripercussioni sono varie. L'Unione Sovietica intanto ha dimostrato una supremazia tecnologica inaspettata e le conseguenze non tarderanno a farsi sentire. La NASA accelera subito il suo progetto Vanguard, il primo satellite americano, però la missione fallisce. Insomma, gli Stati Uniti riusciranno a mandare in orbita il loro primo satellite Explorer 1 soltanto il 31 gennaio del 1958, quasi un anno dopo. E poi l'Unione Sovietica li batterà anche sul fronte ancora più importante del primo uomo sullo spazio, perché il primo uomo sullo spazio sarà Yuri Gagarin, che volerà in orbita attorno alla Terra sulla sua Vostok 1 nell'aprile del 1961, mentre il primo americano a vedere la Terra dallo spazio sarà John Glenn nel febbraio del 62. Insomma, una disfatta su tutti i fronti, e gli americani si potranno riscattare solo 7 anni dopo, quando il 21 luglio del 69 sarà il piede di Neil Armstrong, l'astronauta statunitense, a toccare per primo il suolo lunare per la prima volta nella storia dell'umanità. Però torniamo a lei, torniamo alla nostra cagnolina Laika, che diventa il cane più famoso del mondo. Tutti ne parlano, si grida al miracolo, un essere vivente che sta volando fuori dall'atmosfera terrestre. Tra l'altro ricordiamo che nessuno, a parte i collaboratori stretti, sa che lo Sputnik non è progettato per rientrare, e quindi nessuno sa che Laika è condannata a morte certa. Quindi si diffonde per il mondo questa immagine di una cagnolina felice sdraiata nella navicella spaziale che guarda il mondo da un oblò, come diceva Gianni Togni, ben contenta di quello che le capita. È acclamata dai media, migliaia di cani verranno chiamati Laika, su di lei verranno scritte canzoni, marche tipo di camper le dedicano poesie, viene fatta perfino una marca di sigarette Laika. Oh, they'll pin a red ribbon in his hair. Far being the only dog that's been up there. He'll be boys are talking every town when that Sputnik comes back down, for he has been the highest in the air. Change to Leica. Leica cigarettes, made of the best eastern tobaccos, known far and wide for their fine flavor. E intanto cosa sta succedendo a Leica? Beh, qui forse esattamente non lo sapremo mai. La versione ufficiale, quella che forniscono i russi, è che Leica dopo lo stress del decollo si sia ristabilizzata, tutti i parametri vitali sarebbero tornati nella norma, la pressione sanguigna, i battiti cardiaci, la frequenza respiratoria, e i medici sovietici raccontano che la cagnolina ha mangiato e bevuto, ha fatto pipì, che si è trovata a suo agio. Per 4 giorni va avanti questo bollettino sulla situazione stabile e positiva di Leica. Poi al 4º giorno il mondo riceve la triste notizia che purtroppo le condizioni di Leica si sono inspiegabilmente aggravate e la cagnolina è morta serenamente senza soffrire. E di fronte alla morte di Leica il mondo si divide tra quelli che parlano di inevitabile sacrificio in nome della ricerca scientifica e del progresso e quelli che invece definiscono la morte di Leica un inutile sacrificio. E poi ci sono gli animalisti che protestano, da bravi animalisti, e protestano di fronte alle ambasciate sovietiche di mezzo mondo. Però qual è la verità vera sulla fine di Leica? Ascoltiamo ancora Oleg Gazienko, che molti anni dopo e soprattutto dopo la caduta dell'Unione Sovietica ha raccontato tutto. A quel tempo gli studi balistici si stavano ancora perfezionando e per questo lo Sputnik passò un lungo tempo in orbita. Rimase alla luce del sole molto più del previsto e per questo iniziò gradualmente a riscaldarsi. La temperatura avrebbe dovuto rimanere intorno ai 20 gradi centigradi, ma raggiunse presto i 41 gradi e fu subito chiaro che il cane era condannato. Quello che viene rivelato anni dopo dai vari scienziati partecipanti alla missione, che in realtà Leica sopravvive tra le 5 e le 7 ore dopo il lancio e muore a causa dello sbalzo termico, probabilmente anche per asfissia. Ascoltate l'opinione della scrittura Mary Bennett, autore con David Percy del libro Dark Moon, nel quale si analizza la veridicità delle missioni spaziali, compresa quella sulla Luna. Solo molti anni dopo si è saputo che Leica è morta fra atroci sofferenze, perché il muso della navicella si è distrutto una volta raggiunta l'orbita terrestre, esponendo la cabina all'enorme calore del sole. Ma la successiva verità, che è venuta fuori solo dopo, è che il muso della navicella era stato ideato proprio così. Quindi, per studiare come reagiva un organismo vivente in simili condizioni, in realtà Leica è stata coscientemente destinata ad una morte dolorosa fin dall'inizio dell'esperimento, e l'opinione pubblica non doveva venirne a conoscenza se non dopo un lungo periodo di tempo. Ora, quello che ci si deve domandare è: se ci sono voluti oltre 40 anni per sapere la verità su un cane, quanti anni ci vorranno ancora prima che si sappia la verità sul programma spaziale Apollo e la gente sia messa a parte delle sorti di quegli astronauti? Sì, questa è una perfida ma necessaria domanda, è una domanda alla quale nessuno darà una risposta precisa. Molte verità sulle missioni aerospaziali rimarranno avvolte nel mistero. La navicella contenente Leica rientra 5 mesi più tardi, il 14 aprile del 58, dopo aver compiuto 2570 giri attorno alla Terra. Si sfracella completamente durante il rientro perché sprovvista dello scudo termico, e viene comunque considerata la missione una missione di grande successo dal punto di vista tecnico, anche se Oleg Gazienko ha dichiarato che fu un sacrificio totalmente inutile. Peraltro, dopo Leica, molte altre cagnette sono state spedite nello spazio e molte hanno subito una sorte peggiore, alcune anche una sorte migliore della sua, perché pare siano rientrate sane e salve sulla Terra. Una delle tante migliaia di vittime dei programmi di esplorazione spaziale dei sovietici, degli americani, migliaia di vittime della guerra che c'era tra queste due superpotenze. Laika, anche se è un cane, ha dato un grande colpo d'ala, è rimasta un simbolo per il suo musetto simpatico, per la sua incondizionata e direi mal riposta fiducia nel genere umano. Lei ignara del suo destino di vittima designata a immolarsi sull'altare della ricerca aerospaziale in cambio di due coccole fatte da qualche scienziato russo che già sapeva come sarebbe andata a finire la storia. Ci sono storie di persone, ma anche di animali, e ogni tanto ci capita di raccontare anche queste, animali che in un modo o nell'altro hanno dato, o nel caso di Laika sono stati costretti a dare, un colpo d'ala che ha fatto comunque del bene all'umanità, ammesso che la ricerca nello spazio sia un bene per noi. Ciascuno comunque nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche volare molto in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it oppure al nostro sito, e poi ci sono tutti i nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.